известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. I stand on the shoulders of countless people, yet there is one extraordinary person who is my life aspiration. That person is my mother, Selena Sotomayor. E allora, con fotografie che veramente rivaleggiano con quelle che hanno salutato l'elezione a presidente di Barack Obama, grandi titoli, un'eco straordinaria che non si quieta, anzi si moltiplicano le reazioni, gli articoli, gli editoriali. L'America sta facendo i conti con l'elezione annunciata, ufficializzata ieri dal presidente Obama, del nuovo giudice della Corte Suprema, che ormai, come sapete inevitabilmente, tanto più se ascoltate questo programma, è una donna, ha 54 anni, si chiama Sonia Sotomayor, dice di se stessa di essere una newyoricana, ovvero una portoricana di New York, è una ragazza che si è fatta da sé, partendo dal Bronx, orfana di padre, con una madre che ha lavorato duramente per mantenerla, eccellenti studi e poi una formidabile carriera nella giustizia americana, ma è soprattutto una donna, il che va a confortare una situazione all'interno degli equilibri della Corte Suprema americana tutt'altro che paritaria, se pensate che erano state pochissime prima di lei le donne, soltanto due, e soprattutto è una donna portoricana. Ecco qua, tra l'altro all'interno di una Corte Suprema dove 5 su 9 giudici attualmente coinvolti hanno più di 70 anni, che significa che comunque i ricambi necessariamente saranno piuttosto ravvicinati, e vuoi per abbandono da parte degli stessi titolari, poi per naturali motivi di età. Come sapete, la Corte Suprema è una elezione a vita, si può restare, si ha diritto di restare giudici della Corte Suprema finché lo si desidera, anche fino al giorno della propria morte. Ma grande è la discussione attorno al nome di Sotomayor, anche perché eleggere un giudice della Corte Suprema vuol dire letteralmente eleggere una persona che influenza il corso della vita americana. Le sentenze della Corte Suprema fanno giurisprudenza, modificano sostanzialmente la vita civile del paese. La Corte poi vota a maggioranza e quindi si sta a vedere di volta in volta chi è il nuovo giudice che si aggiunge, se è un liberal o se è un conservatore. In questo caso usciva un liberal come Souter, entra un libera, quindi gli equilibri non dovrebbero mutare molto, però invece muta l'intenzione. Ieri ne abbiamo parlato diffusamente, non ci ripeteremo, attorno all'idea di Obama di dare spazio, visibilità a una componente etnica dell'America del XXI secolo, sempre più presente, sempre più numerosa, importante, sempre più dinamica e sempre più, parliamoci chiaro, elettoralmente significativa. Vedere, come è capitato ieri in televisione, un presidente degli Stati Uniti nero a fianco a un giudice della Corte Suprema, donna e portoricana, all'altezza del maggio 2009 è, come dire, quasi fantascienza. Se ci proiettiamo indietro semplicemente di un anno o di sei mesi, è una nazione che sta cambiando profondamente rotta. E non è un segnale casuale, no? Quello che arriva ad esempio dal più famoso, più ascoltato, più temuto, più amato e più odiato anchorman radiofonico americano. Si chiama Rush Limbaugh, è uno che 20 milioni di persone ogni giorno lo ascoltano come fosse il Vangelo, e che è uscito pesantemente su Sotomayor con delle dichiarazioni in parte riecheggianti quelle fatte in relazione a Barack Obama. Anche per Sotomayor ha detto, ripetendosi, no? Facendo il verso a se stesso, mi auguro che Sotomayor fallirà nel suo compito di giudice, lo ha detto anche per Barack Obama, ma poi si è spinto ancora più avanti, approfittando del commento possibile attorno alla frase pronunciata da Sotomayor alcuni anni fa, secondo la quale l'esperienza di una donna portoricana può essere più utile al compito di un giudice del distacco della vita reale reale di un borghese bianco sempre immerso nei suoi libri, Limbaugh ha risposto in modo veemente dicendo: questo è razzismo alla rovescia, diciamocelo chiaro e tondo, le minoranze possono a loro volta diventare razziste. E per concludere sull'argomento, mentre il presidente già ha lasciato Washington, si muove dalle parti del Nevada, oggi è in missione per accademia, tra l'altro pronuncerà un discorso nel corso del quale festeggerà i 100 giorni dallo stanziamento di stimolo all'economia americana, e ce ne approfitterà per fare il punto sulla situazione. Ma vi dicevo, le reazioni attorno alla elezione di Sotomayor sono tante, vertono essenzialmente nel versante politico, cosa che a noi risulta un po' difficile fare. Noi non siamo convinti che questa sia tutti gli effetti una elezione, una nomina politica in senso partitico. Pensiamo che sia una nomina di rappresentatività. Obama vuol dimostrare pragmaticamente quello che ha promesso, che tutto è possibile nell'America che lui promette e disegna, tutto è possibile anche per una donna portoricana che può diventare giudice della Corte Suprema. Però poi i giornali fanno due conti e sostengono che il Partito Democratico in questo modo sta mettendo seriamente le mani sul grande elettorato ispanico, e che è inutile nascondersi dietro altre scuse. Di fatto l'asse Obama Sotomayor garantisce attenzione, sensibilità, riconoscenza da parte di questo elettorato. Per i repubblicani sarà piuttosto problematico trovare delle contromisure. Glares, scowls and sneers. The most loyal of North Korea's troops serve here. Procediamo con altre aree di crisi, perché ce ne sono diverse nei quali gli scenari sono in movimento. Quello che avete appena sentito è una cronaca BBC dei fatti della Nord Corea, che giorno per giorno rinnovano più o meno sempre lo stesso messaggio. Si potrebbe dire che un missile al giorno leva il medico di torno. Dunque Pyongyang ha lanciato un altro missile, ieri ne aveva lanciati due, la notizia di fonte Yonhap, l'agenzia sudcoreana. Anche in questo caso, come nei precedenti, si tratta di un missile a corto raggio lanciato dalla costa orientale verso il Mar Giallo. Le autorità dei servizi di informazione sono al lavoro per seguire da vicino la situazione. In realtà l'area di tensione si sta spostando nel consueto nucleo caldo della tensione, ovvero la frontiera nord-sud Corea. C'è un tentativo di rappresaglia da parte della Sud Corea, che avrebbe fermato una nave nordcoreana per perquisirla. I militari nordcoreani stanno reagendo in modo veemente, hanno fatto sapere che se questa perquisizione dovesse avvenire verrebbe interpretata come una provocazione, e di conseguenza si alzerebbe inevitabilmente il livello dello scontro. Pyongyang fa sapere di essere pronto a una risposta militare contro Seoul, non si ritiene più legata all'armistizio del 1953, ha minacciato, dopo l'adesione di Seul al programma di antiproliferazione, appunto di sentirsi nuovamente in una situazione simile a quella precedente alla guerra di Corea. Ha avvertito che non garantisce la sicurezza delle navi sulla sua costa occidentale, riafferma in tal modo la propria posizione secondo la quale una eventuale partecipazione di Seul alla iniziativa di sicurezza contro la proliferazione sarebbe considerata a tutti gli effetti una dichiarazione di guerra. Sta salendo in modo severo appunto il livello di confronto fra Nord e Sud Corea, come ci diceva ieri Politi nel suo intervento. Alla luce di tutte queste schermaglie esiste un fatto reale, che è l'esperimento atomico operato in profondità da Nord Corea, che a sua volta riazzerano tante strade state, che sembrava che nazioni attive sul fronte nucleare come la Corea del Nord, in modo imprevedibile, non avessero più intenzione di percorrere. Ultima area di crisi su cui vi vogliamo dare qualche notizia è la Birmania, perché c'è stato un intervento di Barack Obama che ha detto liberate immediatamente Aung San Suu Kyi, la leader democratica birmana accusata di aver ospitato un americano. L'appello di Barack Obama è stato rivolto al regime militare birmano. Obama ha detto liberate immediatamente, senza condizioni, l'oppositrice del regime, attualmente sotto processo. Il presidente tra l'altro ha fatto sapere, questa è una notizia a margine, di aver proceduto a una nomina attesa in alcuni ambienti, quella di uno zar cibernetico, ovvero di una personalità che avrà l'autorità di sviluppare strategie per proteggere da attacchi e intrusioni i network informatici governativi e privati. Ne parla il Washington Post, è un ennesimo segno di un'entrata ufficiale a tutti gli effetti della Casa Bianca, con 9 anni di ritardo nel XXI secolo. Well, I guess I'm through stewing. How about let's roll the rock away? My bed clothes have gone all funky. I've got to get out of this cave. Stay inside. Stay inside. Stay inside. Changing. Look at all the idlers. Soon there will be no one to shear the sheep, and I am cold nature. Stay inside. Stay inside. Stay inside. Lasciamo gli scenari che abbiamo frequentato più intensamente in questi giorni, soprattutto la nomina alla Corte Suprema e le turbulenze coreane. Vediamo altre notizie dal mondo. 360 gradi, news dai punti sensibili del pianeta. E allora cominciamo questo nostro giro del mondo dalla Cina, nostro punto di riferimento, puntero del programma assieme naturalmente agli Stati Uniti, e vi voglio parlare di Ma Jian, che è uno dei più famosi scrittori cinesi contemporanei, nato negli anni 50 a Qingdao, però in esilio da una ventina di anni per aver scritto delle cose che evidentemente al regime comunista non hanno mai fatto molto piacere. Il suo più famoso romanzo è Tira fuori la lingua, storie dal Tibet, quindi già dall'argomento si può capire perché poi Ma Jian è da tempo in esilio, ha vissuto tra le Europa, Hong Kong e altri lidi lontani da Pechino. Parlare di Mahjong significa però parlare anche di un anniversario importante, grande, tragico, che forse la Cina farà finta di non ricordare in questi giorni. Però Stefano, manca davvero poco al 4 giugno, perché nel 4 giugno del 1989 si consumava la tragedia di piazza Tiananmen, la strage degli studenti nella più grande piazza del mondo, che fu un'immagine simbolo di quell'89 che poteva forse segnare la fine del regime comunista. Poi invece il regime comunista, diciamo, è rinato dalle sue ceneri, e però tutto sommato anche da quella triste e terribile vicenda è ripartita anche la rincorsa che ha permesso poi alla Cina di diventare il dragone, l'economia mondiale che conosciamo in questi tempi di nuovo millennio. Ebbene, sta per uscire il nuovo romanzo in Italia di Mahjong, che si chiama Pechino è in coma, uscirà esattamente il 4 giugno, non è naturalmente a caso, è una scelta azzeccata di Feltrinelli, e il romanzo, al quale lo scrittore ha lavorato per ben 10 anni, due di questi tra l'altro trascorsi in un ospedale di Canton a studiare la vita dei malati in stato vegetativo, riporta proprio a quelle vicende dell'89, perché il protagonista è uno studente attivo in quel 1989, si chiama Dai Wei, che a ventenne veniva colpito alla testa da un proiettile nella sommossa di quei giorni e poi rimane appunto in stato vegetativo per 20 anni. Quindi il tema è molto forte, e tra l'altro c'è una dichiarazione recente dello scrittore secondo il quale la Cina non è affatto aperta al mondo, come invece si poteva sperare dopo le Olimpiadi, anzi lo spazio di libertà, sia civile che poi economica e personale, si è estremamente ridotto, così ha detto Mahjong in questi giorni. Quindi continua a gettare delle ombre sulla Cina del XXI secolo. C'è un'altra notizia dagli Stati Uniti, riguarda un personaggio che non trova pace, non trova requie dopo tanto successo e anche tante turbulenze all'interno della sua biografia. Stiamo parlando di Mike Tyson, l'ex campione mondiale dei pesi massimi, poi un personaggio mediatico contraddittorio, strano, particolare, in certi casi protagonista di episodi estremamente negativi, in altri casi incarnazione, no, a sua volta, di una certa interpretazione del sogno americano. La notizia è tristissima, riguarda la sua bambina che si chiama Exodus Tyson, di soli 7 anni. Sono usciti i particolari relativi all'improvvisa morte della bambina in un incidente domestico che si è consumato nella casa di Phoenix, dove viveva con la madre. È in sostanza rimasta strangolata da una corda che era connessa al tapirulan, uno di quei tapirulan che tanta gente tiene in casa nella vana speranza di perdere qualche chilo camminandoci sopra, e la bambina è rimasta incastrata, è stata liberata appunto dalla madre da questa terribile trappola, e ora emergono a margine della notizia dei dati assolutamente inquietanti in arrivo appunto dalle case americane: 1000 bambini sotto i 14 anni ogni anno morirebbero strangolati in incidenti domestici. L'88% addirittura sotto i 4 anni condannati da quella strana trappola che per alcuni di noi, per alcune famiglie, no, troppo forse dotati di gadget che diventano pericolosi, sta diventando la nostra casa. Take me out, fuck me up. Oggi qui c'è un agente ogni 10 metri. Ci sono controlli, famiglie e bambini rossi dal freddo. Eppure un po' di aria da concerto si respira. Una strana Woodstock democratica questa. È vero, ogni inaugurazione è un momento storico. Ogni volta è una novità. Però, dicono i ragazzi dell'Istituto Tecnico, si sente che adesso c'è qualcosa di diverso. Tra l'altro un concerto lo hanno fatto davvero qualche giorno fa, proprio dove aveva parlato Martin Luther King 46 anni prima. Dopo Bon Jovi, Bruce Springsteen e Stevie Wonder, erano saliti sul palco gli U2 per suonare Pride, dedicata a King, guarda caso. E il suo fantasma in questo istante, a qualche minuto dal giuramento, aleggia sul Mall di Washington. La CNN annuncia che questo paese non è mai stato tanto ottimista. L'84% degli americani è con Obama. E queste sono note vergate in una giornata indimenticabile da Gerardo Greco, il corrispondente del TG2 da New York, che fanno parte di un volume che si chiama Good Morning America, un sottotitolo Un viaggio sulle tracce del nuovo sogno americano, appena uscito nelle librerie italiane da Sperling e Kupfer, dove Gerardo, che è qui al mio fianco, che saluto, buon pomeriggio Gerardo. Grazie, buon pomeriggio. Racconta tanta America conosciuta, toccata, visitata, poi vedremo anche con delle implicazioni di carattere personale, e poi passa naturalmente attraverso quello che potrei definire il luogo comune giornalistico inevitabile per anche e soprattutto per gli inviati dell'ultimo periodo, anzi di inizio XXI secolo, ovvero la campagna elettorale e la elezione di Barack Obama e poi il suo insediamento che abbiamo sentito ora raccontare da Gerardo, perché tu, pur facendo come dire, servizi televisivi, quindi con le tempistiche particolari e tutto il resto, hai comunque, mi sembra di poter osservare, vedendo la televisione, hai un po' il gusto ancora del vecchio reporter gamba in spalla, cioè ogni tanto prendi, molli New York e la Quinta Strada e lo sfondo dei turisti del cammino e ti immergi in quell'America profonda che poi, certo, in sostanza racconti nel tuo libro, perché è difficile rinunciare a quell'approccio, magari è più scomodo, ma è difficile. Assolutamente, è scomodo anche perché io ho un bambino di 3 anni e mezzo, di 3 anni, che cresco a New York, è complicatissimo, certo, eccetera, però direi che forse è la cosa che vale la pena fare quando si è a New York, cioè girare l'angolo della Quinta Avenue, certo, e cercare di andare fuori, di uscire da questa Manhattan che poi è opprimente. Io per molti anni, io sono arrivato lì nel 2001, qualche mese prima dell'11 settembre, veramente non sono riuscito a uscire perché poi era quella la dinamica delle notizie, una dietro l'altra, con epicentro Ground Zero 11 settembre eccetera. Poi a un certo punto, devo dire, anche con questa campagna elettorale, con questa rincorsa spaventosa tra Obama e la Clinton che non finiva mai, cioè, ci siamo trascinati a fatica, alla fine a non poterne più, praticamente in tutta l'America, e devo dire però è stato un viaggio dell'anima, insomma, nel cuore di questo paese, alle radici poi del sogno americano, insomma, cercando di capire quale poi possa essere questo sogno. E io l'ho raccontato qui, scrivendo in realtà soprattutto la notte, forse si vede anche scritto la notte, scrivendo la notte, quando appunto non ci sono i ritmi televisivi, certo, si è un po' più, certo, tranquilli, e ho cercato di dire, di raccontare questa America che poi, devo dire la verità, è surreale, nel senso che queste sono avventure americane. L'America resta un paese avventuroso, dove se non succedono le cose si fanno succedere, insomma, certo, dove a un certo punto se c'è un attimo di tranquillità ti fanno atterrare un aereo sul Hudson, insomma, sotto, certo, casa, certo, tanto per certo, darti l'idea, a New York, certo, e appunto viene fuori questa America surreale che sembra quasi romanzesca, invece queste sono avventure americane bene o male vissute appunto con la telecamera in spalla, andando, certo, andando a girare, andando a raccontare la capitale della bolla immobiliare, Cleveland o Detroit, il, certo, sogno della Fiat, certo, o l'incubo della Fiat a Detroit, e poi la frontiera, e poi poi questa straordinaria quantità, galleria di individui, perché poi al di fuori dei personaggioni che vediamo effigiati tutti i giorni anche in televisione, qui c'è una popolazione da fresco cinematografico di tutti i generi, che sono poi forse la forza, la curiosità e anche la potenza dell'America. Sì, e alla fine sono quelli, diciamo, diciamo, qui non c'è nessun personaggio, non c'è nessun nome noto, certo. Sì, salvo quelli che poi incontri in campagna elettorale, certo. Ma quello appunto è un circo, certo. dove ti trovi davanti Clinton che vogliono parlare con te, eccetera. Però ci sono i personaggi di questa America flyover, come la chiamano, no? Cioè, certo. Ci voli sopra, non atterri mai in Iowa piuttosto che non in Montana. Invece in questo caso io sono riuscito ad atterrarci, certo. Ci vedo anche molto volentieri, e appunto sono questi personaggi dell'America profonda che poi ti raccontano delle cose che sono rivelatrici della realtà americana, che ripeto è assolutamente surreale. Una delle cose che a me ha affascinato di più è in Iowa, dove ovviamente parte dove tutto comincia, perché c'è una mano sottilmente malvagia ha messo il caucus, certo. Quindi le primarie, diciamo, elettorali in Iowa a gennaio. L'Iowa a gennaio è come andare in un frigorifero, certo, insomma, certo. E quindi queste schiere di poveri candidati che si trascinano, poi sono molti perché siamo all'inizio, non c'hanno soldi. L'Iowa è molto grande, non c'è nessuno, c'è poca gente. Bisogna andare a bussare porta a porta, eccetera, nella neve. E allora a un certo punto sono capitato in uno di questi villaggi sperduti di agricoltori, dove ci sono questi farmer americani, alcuni anche italiani di terza, quarta generazione, che per esempio hanno deciso di diventare sceicchi, insomma petrolieri, hanno distrutto tutto quello che piantavano fino allora per generazioni, hanno piantato soia e fanno biodiesel, e ti dicono no, perché noi a questo punto ce ne frega, basta con gli emiri e con gli sceicchi, siamo noi petrolieri, facciamo biodiesel e ci mandiamo avanti il trattore, eccetera. Cioè è un'America surreale, dove a un certo punto mi capita, andando a Cleveland, appunto capitale della crisi della casa, eccetera, mi capita di comprare una casa per $900, che è la casa dei nostri sogni, certo, la casa dei sogni, certo. Di bambino, cioè la casa di Topolino, certo, quella, certo. Diciamo del sogno di americano, film, la villettina, certo. Il giardino avanti e dietro, dico, beh, meraviglioso, ovviamente distrutta, eccetera, pignorata. A Cleveland ci sono 40.000 case così, quindi sostanzialmente mezza città è deserta, è pignorata, sì. Quando c'è una mezza città pignorata è ovvio che non c'è mercato, non hanno valore, e quindi appunto mi capita di comprare questa casa. Vedo che in regia si alzano, sono rimasti interessati a questa cosa della casa a $900, sì, dollari a Cleveland. Però il problema è che tocca andare a vivere a Cleveland e poi si non sono appizzati, come io capisco, ma e poi bisogna rimettere tutto a posto, quindi lì col martello le cose, cioè. Però appunto io ci sono cascato, ho comprato la casa a $900, mi sono messo lì sul portico, ho contemplato la devastazione, certo. Davanti, però ho detto, beh, però accidenti, c'ho la casa del sogno americano, finalmente mi sono realizzato. Lo sto vivendo in prima persona. Esatto. Senti, il libro tra l'altro ha una interessante, divertente, anche stravagante da seguire, come dire, un pandan personale, cioè Gerardo Greco, anzi, virgola, i Greco, sì. Hanno a loro volta attraversato il sogno americano, tu qui lo racconti. Sì, io sono arrivato in America poche settimane prima dell'11 settembre, e una delle cose che ho fatto dopo l'11 settembre, dopo che siamo un po' calmate le acque, è stato andare a questo museo di Ellis Island, dove vanno tutti gli italiani, certo. Anche perché appunto tutti abbiamo di riconoscere qualcuno, no, tutti quanti li abbiamo, ci sono 4 milioni di italiani che si trasferiscono agli inizi del Novecento in 10-15 anni negli Stati Uniti, quindi il 10% della popolazione allora se ne va negli Stati Uniti, quindi è rimasto molto. Io ho trovato casualmente che c'erano 5 Gerardi Greco che venivano più o meno dall'area della mia famiglia, certo. Si chiamavano come me e come mio nonno, certo. E quindi ho cercato le tracce di questi 5 Gerardi Greco attraverso il coinvolgimento dei circoli degli italoamericani per la campagna, eccetera eccetera, e alla fine il quinto e ultimo Gerardo Greco che veniva da Salerno sono riuscito a ricostruire, sono arrivato a vedere chi sarei stato se mio nonno invece andava da Salerno a Roma fosse andato da Salerno a New York, e quindi ho ritrovato, diciamo, il mio coetaneo, il mio specchio dall'altra parte, l'ho ritrovato tra l'altro poco lontano da New York, dopo appunto una ricerca di qualche mese che è stata una ricerca di un sogno americano di famiglia, diciamo, personale, certo, certo. C'è attraversato. Dunque il libro, vi ricordo, si chiama Good Morning America, l'autore Gerardo Greco è qui a farci compagnia, edito da Sperling e Kupfer. Ne parliamo ancora di nuovo tra qualche minuto, nell'ultima sezione del programma, dopo le notizie dal traffico. I'm not gonna lie. Not gonna make up my mind tonight. No, I'm not gonna pretend. loro sito si chiama dabagirls.com e Daba in italiano suona qualcosa come anonima società appuntamenti con banchieri. Scrivono le ragazze: se vi piaceva uscire con gente di Wall Street che fosse in grado di pagare qualsiasi tipo di conto, siamo qui per aiutarvi in tempi di difficoltà. Qui versiamo lacrime sul mondo che abbiamo perduto in questa crisi. Le signorine hanno persino tratto in inganno il New York Times, che le aveva scambiate per vere vedove del distretto finanziario, riunite per piangere sui soldi scomparsi dei loro compagni. Invece, Lenny e Meghan fanno tutto per divertimento, e poi perché a Manhattan il blog va di moda. Forse non sono mai uscite con dei banchieri veri, ma ciò che scrivono dà un'idea di quello che può essere la crisi, allo specchio di un Sex and the City finanziario. Per esempio, qualcuno, ospite di dabagirls.com, racconta delle devastazioni di una normale vita sessuale quando il Dow Jones cala troppo. Sì, diceva un tempo: no, no money, no honey. Esatto. Questo è il senso. Questa è la storia che racconta in quest'altro piccolo estratto da Good Morning America Gerardo Greco, parlando delle vedove di Wall Street e poi di questo corpo dell'America, no, spezzato in due da questo colpo d'accetta che è stato la crisi esplosa all'inizio di autunno, alla fine dell'estate, in coincidenza con una elezione che appunto noi tutti i giornalisti appassionati di America abbiamo seguito, in realtà galoppandola tutta un po' su altre strade, perché poi sì. No, c'è stata quest'ultima, come dire, terribile e improvvisa deviazione che ha modificato gli scenari, vero? Ma, io insomma mi ricordo quando è crollata Lehman Brothers nella notte. Certo. E poi ci sono state quelle scene che forse qualcuno si ricorderà, delle persone che uscivano con gli scatoloni, con le cassettine, con le cassettine con dentro. Certo. Anche quello, anche lo scatolone è uno stato dell'animo americano, no? Cioè i licenziamenti in America sono immediati e quindi tu devi andare via, tra l'altro senza farti vedere, avvengono la mattina presto e quindi all'alba tu vai via con questi scatoloni. Ecco, questi scatoloni erano assolutamente poco attesi, insomma, comunque si era capito che qualcosa non funzionava, ma certo sono stati una sorpresa. E questi scatoloni da Lehman Brothers poi in giù fino a niente, alla devastazione di Wall Street, al crollo del Dow Jones, che ogni giorno si apre più che dire, nel senso che continuano a dire vabbè, ma dov'è il fondo, adesso stiamo, come dire, in questa melma paludosa di questa U molto lunga che certo. È la curva bassa di questa crisi, beh insomma certo è stato un colpo mortale e casualmente, o forse no, è arrivato nel momento in cui appunto c'è questo nuovo presidente in via di elezione, e poi questo nuovo presidente alla Casa Bianca, portando sostanzialmente un compito alla Casa Bianca da far tremare le vene ai polsi. Infatti noi nella ultima di copertina abbiamo messo questo Obama Superman, non certo. Perché Obama sia Superman, perché Obama deve diventare Superman se vuole cercare di passare alla storia in qualche modo, o comunque di venirne fuori. Quindi appunto un compito da far tremare le vene ai polsi, e io cerco di raccontare queste giornate a Wall Street. Io ho passato gli ultimi due mesi proprio sul floor a Wall Street, diventando alla fine amico dei vari broker eccetera, e cerco di raccontare come la crisi sia stata vissuta proprio da lì, dal floor, dal parquet di questo rettangolo da cui si pensava di dominare il mondo, quando a un certo punto tutto si sgretola davanti. Allora, fino a dove arriva questa crisi, come ci si riprende, cosa si fa, e le Dabba Girls, queste ragazze socialite newyorkesi, erano molto divertenti perché raccontano appunto questa crisi un po' da ridere, un po' da Sex and the City. Senti, per concludere, il tuo lavoro, la televisione, il telegiornale italiano, mandare di qua notizie, ma mandare di qua anche un quadro, scegliere, selezionare e come raccontare, ti sei soprattutto in questi ultimi drammatici frangenti, gli ultimi mesi, elezioni, nuovi personaggi, crisi, ti sei costruito in un certo senso una come dire, una poetica per raccontarla agli italiani, per delle chiavi, come dire, per spiegare, no, questo difficile scenario? Sì, io credo che appunto il sogno americano in Italia, questo sogno di esportazione, sia sempre molto forte, malgrado tutto. Poi adesso con Obama, che per gli italiani, per gli europei in generale, è veramente super, per gli americani certo, molto meno, bisogna stare attenti. In realtà si venda abbastanza bene, cioè il prodotto del pezzo del TG2 delle 20:30 non si fa fatica a piazzare. Credo che però la poetica, la cosa da raccontare è diciamo, girare intorno alla notizia, quindi andare a vedere cosa c'è dietro al podio di Obama. Dietro al podio di Obama, per esempio, vedremo questo gobbo elettronico, certo, che non funziona mai. Insomma, cercare di passare dietro, ed è un po' quello che io ho cercato di fare uscendo dai pezzi di 2, 3, 4, 5 minuti al massimo che si fanno per il telegiornale, e cercando di, appunto, di raccontare questa America dietro le quinte in questo viaggio molto faticoso, perché poi, appunto, sempre di corsa, sempre con i tempi, con i cronometri, con i minuti contati, però, appunto, dietro le quinte di questo sogno americano, e vedere che cos'è o che cosa sarà, insomma, tra qualche anno. Va bene, grazie. Si chiama Good Morning America, ve lo ricordo ancora, Gerardo Greco ce lo ha presentato, Un viaggio sulle tracce del nuovo sogno americano, il sottotitolo, edito da Sperling & Kupfer. Buon ritorno presto a New York. Grazie mille. Questa è la Jefferson di oggi, sono Stefano Pistolini, in redazione Emiliano Enrico, in regia a Roma Valerio Rocchetti, a Milano Filippo Aureggi, la mail la solita jefferson2@radio24.it, le pagine Facebook, redazione Jefferson 2 per contattarci direttamente, o Jefferson 2 Radio 24, Express Yourself, che abbiamo messo in stand-by perché la mail, come sapete, di Facebook funziona maluccio in questo periodo, ma per dibattere sui temi del giorno. La puntata va in replica a mezzanotte, la trovate in podcast sul sito della radio. La diretta, come sempre, vi aspetta domani dopo le 4 qui su Radio 24, e ci risentiamo.